Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. R-E-A-D-A-B-O-O-K. R-E-A-D-A-B-O-O-K. R-E-A-D-A-B-O-O-K. R-E-A-D-A-B-O-O-K. Direi che è il modo più bello per viaggiare. Ed eccoci, buonasera a tutte e tutti, anzi buon pomeriggio che è ancora presto e benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di Poi You Hit, Lettere Contrarie. Scusate un pochino per il breve ritardo che abbiamo avuto oggi, colpa mia, un po' di prove tecniche di trasmissione che magari avete sentito, ma adesso eccoci, finalmente ci siamo per questa nuova puntata della trasmissione di Radio Wombat, tutta dedicata alla letteratura. From out on the island, in the back room she was everybody's darling. L'abbiamo già detto anche nelle scorse puntate, perciò lo ricordo molto velocemente, che Poi You Hit è la trasmissione appunto di Radio Wombat dedicata alla letteratura e più precisamente a quella letteratura portatrice di una cultura libera, indipendente, solidale e critica della società capitalista in cui viviamo. Romanzi, saggi, poesie e riviste accomunate dalla convinzione che la cultura abbia un valore incommensurabile e debba essere condivisa e sempre accessibile a tutti. Ricordo anche che questa trasmissione nasce in occasione del 5° Festival di Letteratura Sociale di Firenze e che per quest'anno, almeno per adesso, fisicamente non si sta svolgendo. Si svolgeva ogni anno a maggio negli spazi autogestiti della Polveriera e non si sta svolgendo per ovvie ragioni, ma abbiamo deciso non di cancellarlo, bensì di spostarlo, ed ecco qui che lo facciamo succedere su queste frequenze autogestite di Radio Wombat. La scorsa settimana abbiamo avuto ospite Zona Letteraria, la rivista di letteratura sociale, abbiamo parlato quindi di riviste e oggi invece parliamo di poesia con il nostro ospite, che intanto annuncio e vediamo se tutto funziona e se lo sentiamo. Ciao Edo, benvenuto, mi senti? Ciao Marco, ciao Wombat, ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccolo, benvenutissimo. Allora, la voce che avete sentito è quella di Edoardo Olmi, che è un amico e un compagno, ma qua è innanzitutto in veste di poeta ed editore. Edoardo Olmi, lo presento io velocemente, è nato a Firenze nel 1984, ha pubblicato due raccolte di poesie, Il Porco Spino in Pegaso nel 2010 e Rex Distance, se lo pronuncio bene, poi me lo dici te, nel 2017, ancora qualche notizia, è stato inserito nel censimento dei poeti italiani fra i 20 e i 40 anni, ancora per poco vecchio, realizzato da pordenonelegge.it. Suoi testi sono apparsi su molte riviste, fra cui Collettivo Mensa, Prospettiva o su blog come Scrittori Precari, Imperfetta Ellisse, eccetera. È stato tradotto in inglese per la rivista americana Solstice e per l'antologia internazionale della Brigata dei Poeti Rivoluzionari. È stato tradotto anche in spagnolo dal poeta messicano Alberto Blanco. Attualmente è curatore assieme a Marco Incadorna della collana editoriale di Affluenti per Edizioni Ensemble. Gli abitué del Festival di Letteratura Sociale lo ricordano sicuramente bene, non solo perché con i loro banchini sono stati presenti in tutte le edizioni, ma anche perché alcuni di questi testi, fra cui l'anno scorso l'antologia dei poeti e delle poetesse fiorentine, della nuova poesia fiorentina, è stata proprio presentata in occasione del Festival della Letteratura. Un ricordo male, Edoardo Olmi, sei sempre con noi. Era l'anno scorso o era 2 anni fa che abbiamo presentato l'antologia? L'anno scorso forse c'era Eva Kruschel, com'era? Caro Marco, io, come tu giustamente dici, fra poco mi metteranno nel censimento dei poeti vintage, perché insomma fra poco scalzo 40, ma la tua memoria di ferro ogni tanto un po' ti inganna, nel senso... E no, giustamente, anzi, però ti ringrazio davvero intanto della radiografia, insomma, molto esaustiva che hai fatto, e anche per aver ricordato che appunto l'anno scorso abbiamo presentato al Festival di Letteratura Sociale Contrabbando di Ufo con Eva Kruschel, e con l'autrice, fra l'altro, appena arrivata in Italia dagli Stati Uniti per una piccola tournée che avrebbe fatto poi in Italia. 2 anni prima presentammo appunto sia la seconda antologia di affluenti, la prima antologia di affluenti di cui uscirà una seconda edizione, una seconda antologia a breve, insieme ai ragazzi, ad alcuni appunto autori dell'antologia, e presentammo anche Resistance, sempre al Festival di Letteratura Sociale. Ah, è benissimo, viva! Allora, ora oggi parleremo con Edoardo Olmi del suo prossimo libro, e non solo, ma prima di dare parola e entrare nel vivo della trasmissione di oggi, voglio ricordare quel gioco che abbiamo inaugurato già dalla scorsa settimana, che lo dico gioco, ma in realtà è un gioco assolutamente serio. Abbiamo invitato infatti tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici a inviarci una loro lista di 5 o insomma quanti volete libri preferiti in vario modo, quelli che più vi hanno segnato, colpito in positivo, in negativo, quei 5 libri insomma di cui ci volete parlare, che ci volete consigliare o magari vivamente sconsigliare, comunque una lista dei vostri 5 libri preferiti, per dirla alla buona. Già la scorsa settimana abbiamo mandato le prime 2, nel frattempo hanno continuato ad arrivarci alcuni contributi. Io direi subito di mandare 3 contributi che ci sono arrivati questa settimana, 3 liste, e poi torniamo e iniziamo la puntata di oggi assieme a Edoardo Olmi. Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ciao, sono Benedetta e questi sono i miei 5 libri preferiti. 5. Il barone rampante di Italo Calvino, perché tutte le volte che lo leggo voglio tornare bambina e salire sugli alberi. 4. Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini, perché è la Firenze che amo di più. 3. Lessico familiare di Natalia Ginzburg, perché mi ricorda mia nonna. 2. I racconti di Franz Kafka, perché è come vedere un film muto. 1. Wu Ming, invisibili ovunque, perché scrivono così bene che fanno commuovere. Ciao a tutte, asterisco, io sono Lorenzo, ho 32 anni e vengo da Firenze, e mi è stato chiesto di fare una top 5 dei miei libri. Mai cosa fu più difficile, devo dire. Pensavo che sarebbe andato molto meglio di così, invece ho dovuto fare una grande confusione, tirare giù libri, guardarli tutti uno per uno per capire cosa scegliere. È stato anche divertente, che c'entra, specialmente in questi giorni in cui c'è veramente ben poco da fare. Però, insomma, se mi piacerebbe che mi fosse dato il permesso di fare delle menzioni speciali prima di arrivare alla vera e propria top 5. Tra le menzioni speciali, appunto, ovvero quei libri che a me sono piaciuti, che sono stati d'impatto per me, ma che non ho potuto inserire tra i migliori 5, sono questi. I Promessi Sposi, che tutti considerano un mattone, e io non riesco a capire perché scorre così bene, è così variegato, colorato, socialmente sempre così attuale, con questa ironia molto gentile che soltanto Manzoni ha, dove ti fa sentire veramente sia dentro la scena che dal suo punto di vista di narratore. È difficile da spiegare. Quindi, boh, vabbè, ora non voglio dilungarmi troppo su questi, sui libri che non sono nella top 5, però insomma. Poi c'è questa coppia, i Simpson e la filosofia e South Park e la filosofia, di autori vari. Libri di grande intrattenimento e anche molto istruttivi, devo dire, sia per chi conosce la filosofia, sia per chi come me non è mai stato una cima in filosofia, però è un grande fan sia dei Simpson, quelli d'oro, intendo io, e di South Park. E poi, che dire, La fattoria degli animali di George Orwell, piccolo capolavoro secondo me, che con grande semplicità sotto l'aspetto di una quasi di una favola, riassume il totalitarismo in maniera impressionante. E peccato soltanto per i protagonisti che sono dei maiali. E a me il maiale mi è molto caro, è il mio animale preferito, e quindi vederli come cattivi, o specialmente comunque uno di loro come cattivo, è sempre un po' doloroso, però vabbè, comunque rimane comunque un bel libro, a parte gli scherzi. E a proposito di scherzi, i libri che più mi hanno fatto piegare dal ridere, mai riso così tanto leggendo un libro, ovvero Fantozzi e il secondo tragico libro di Fantozzi di Paolo Villaggio e Parola di Giobbe Covatta. Veramente, io mi piego in due ogni volta, anche soltanto al pensiero di riaprirli. Quindi ora, detto questo, invece Lorenzo, ci vuoi dire ora la top 5 in una, al di sotto dell'ora, ora e mezzo di audio? Ma sì, volentieri. Allora, numero 5, direi Siddhartha di Hermann Hesse. È un po' strano come libro perché non mi ha fatto impazzire, devo essere sincero, però l'ho letto in un periodo della mia vita in cui probabilmente ne avevo molto bisogno. E mi ricordo che man mano che lo leggevo, mi sentivo sempre meglio. E una volta chiuso il libro, una volta finita la lettura di Siddhartha, mi sono sentito molto meglio con me stesso, con gli altri, col mondo che mi circondava, ma non c'è niente di trascendentale o di appunto di misticheggiante in questo. Prima stavo peggio, una volta ultimata la lettura del libro stavo meglio. Non saprei spiegarlo meglio di così. E quindi penso che soltanto per questo si meriti un posto nella top 5. Numero 4, Le 13 vite e mezzo del capitano Orso Blu di Walter Mörs. Un libro, come si può evincere dal titolo, chiaramente per bambini non direi, per ragazzi. Però, secondo me, va riletto ogni tanto, soltanto per il fatto che è di una creatività incredibile, irripetibile. Ogni capitolo, cioè ogni vita di questo piccolo orso, è un libro a parte, con una sua fantasia, una sua creatività, appunto. È un libro veramente molto divertente da quel punto di vista, di grande intrattenimento, cioè ogni via per chiunque, secondo me. Per questo dico è per ragazzi, ma fino a un certo punto. Cioè penso sia per chiunque, perché chiunque possa trarre beneficio, insomma, anche soltanto a livello mentale, da tutte le immagini vivide che regala questo libro. Poi, numero 3, è un libro, più che un libro, è un poema, comunque l'ho letto sotto forma di libro, La ballata del vecchio marinaio di Coleridge. Anche lì si torna sulla forza delle immagini. Poi io ho sempre avuto un rapporto strano con la natura in generale e con il mare in particolare. Ne sono sempre molto affascinato, ma anche spaventato, ma anche incuriosito. E tutto questo è racchiuso nella ballata del vecchio marinaio. Lo leggi e senti la salsedine, senti l'angoscia, vedi questo albatro bellissimo. È veramente potentissimo, nel giro di poche pagine ripensi a tutte quelle immagini per una settimana. Quindi numero 2 dall'albatro lo passo a un gabbiano. E quindi il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, perché mi ha insegnato appunto il gusto della ribellione in un certo senso, no? Ovvero è importante far parte di una comunità, è importante tramandare cultura, sentirsi simile ad altri, però ognuno ha una individualità da difendere e ognuno ha uno scopo da perseguire e non è giusto che venga frenato in questo. Questa è stata la morale che ho tratto da Il gabbiano Jonathan Livingston, anch'esso un libro minuscolo, se ci pensiamo bene, ma intriso veramente di potenza, di carisma quasi. E concluderei con, al primo posto, il mio libro preferito da più di 20 anni a questa parte, che è Il piccolo principe. Mi ha dato una grande mano, sin dal primo momento in cui l'ho letto. Allora, è un libro, diciamo, in maniera bonaria contro gli adulti, no? Se proprio vogliamo semplificare molto male la storia, dove valorizza il bambino. E a me ha dato una mano, visto che io da bambino mi fidavo soltanto degli adulti, e tuttora non ho una grande, come dire, una grande reputazione nei confronti dei bambini, però all'epoca mi aveva aiutato a sentirmi più vicino anche a loro, cioè ai miei coetanei, perché appunto l'ho letto la prima volta che avevo 10 anni. E è stato molto bello leggerlo e rileggerlo, perché è un libro che io rileggo ogni tanto, è l'unico libro che rileggo più volte, devo essere sincero, perché ogni volta imparo qualcosa di diverso, ogni volta mi regala un punto di vista diverso su situazioni diverse. E vabbè, è un elogio dell'immaginazione incredibile e del bambino interiore. E non a caso, questo probabilmente inconsciamente è stato uno dei motivi per cui sono diventato un attore, perché io di lavoro faccio l'attore. Perché appunto mi ha dato... Ogni attore, secondo me, deve coltivare il bambino che ha in sé. E Il piccolo principe mi ha aiutato a fare questo. Non a caso è stata anche la prima recita scolastica in cui ho recitato e all'interno della quale io ho pensato: voglio fare questo nella mia vita. Quindi ci sono vari motivi che legano Il piccolo principe alla mia carriera, alla mia vita e alla mia persona. Ci sono così tante lezioni, tante morali, tanti insegnamenti. In maniera, tra l'altro, così semplice. Non è un libro complesso, non è un libro difficile, eppure è incredibilmente sfaccettato. Mi ha insegnato veramente tanto. Mi ha insegnato così tanto che lo reputo quasi parte della mia famiglia, devo essere sincero. E quindi, niente, Il piccolo principe si merita senz'altro il primo posto in questa top 5. Spero di non essermi troppo dilungato, spero di non avervi tediato, perché comunque insomma è sempre difficile parlare dei propri gusti, perché si ha sempre paura di dimenticarsi qualcosa, di non rendere giustizia a ciò che si ama, e spero di averlo fatto. Grazie. Ciao, sono Rosanna Gentili e questi sono i miei 5 libri preferiti della vita. Ciao, rispondo a questa bella domanda, che è stata l'occasione per andare a ripensare alle mie letture. La lettura che nella mia vita ha un ruolo fondamentale. Le letture mi hanno proprio influenzato l'esistenza, tuttora mi aiutano a vivere, a camminare, a guardare, a godere, a respirare. Allora, il primo libro della mia classifica personale è Memorie di Adriano Yourcenar. Che dire, letto quello sono andato a cercarmeli tutti i libri di questa grandissima autrice Yourcenar. È immenso, un libro magnifico, sontuoso, lo definirei, una capacità di guardare alla storia unica a mio parere, uno sguardo così ampio, così uno sguardo così lucido, così poco appannato su un personaggio storico così lontano, lo rende quasi un manuale di etica per i contemporanei. E assolutamente imperdibile per me anche come romanzo di formazione, che ho fatto leggere anche a miei figli e che hanno apprezzato. Il secondo libro della mia classifica è Maestro e Margherita di Bulgakov, altro libro a mio parere magnifico, memorabile la conversazione, memorabile e commovente la conversazione tra Gesù e Pilato. E veramente anche qui la fantasia umana che va oltre ogni limite nell'immaginarsi questi demoni che non sono né buoni né cattivi, che attraversano l'esistenza. È una cosa che solo a parlare mi viene voglia di andarlo a rileggere. Al terzo posto ne devo mettere, ahimè, due. Anzi no, al terzo posto ne lascio uno, Lolly with Lois. È un romanzo poco famoso di questa autrice Sylvia Townsend Warner, che ha scritto pochissimo, ma questo libro mi ha colpito nel profondo, che ho letto anche quasi tre volte, perché non lo so, ho provato una profonda adesione alla appassionata solitudine della protagonista che vive nella natura, questa strega all'inizio inconsapevole di essere tale. È, infatti il sottotitolo è O l'amoroso cacciatore, infatti questo stare della protagonista nel bosco la porterà a incontrare l'amoroso cacciatore. E, ecco qua ho due segnalazioni. La prima è Tito di Gourmenghost di Mervyn Peake, anche questo Adelphi come il libro precedente. Ah, è un libro in cui ti perdi nei meandri di questo palazzo immenso, nei corridoi, nei cunicoli, nei labirinti delle stanze di questo palazzo, come se tu attraversassi un corpo umano favoloso. I ritratti dei personaggi, potrebbe anche essere un libro fantasy, ma va oltre. Io mi sono assolutamente persa in questo un libro meraviglioso. E diametralmente opposto, un altro libro che mi ha sconvolto, che peraltro non è un romanzo, bensì un saggio famoso, sempre pubblicato su Adelphi, è Il codice dell'anima di Hillman, che ha rimesso a posto, in ordine, tutta la mia ansia di capire il significato dell'esistenza, che ha fatto la pace anche con la mia natura spiritualista, con la mia religione buddista, quindi filosofia, che ho trovato una filosofia, anzi molto legata alla psicanalisi, che è andata a braccetto con la mia Weltanschauung, con la mia visione della vita e dell'esistenza. Poi abbiamo ultimi, anche qua al plurale, perché io quando ho letto il primo libro di Joshua, vale a dire L'amante, poi li ho letti tutti. E L'amante è un libro perfetto, è un libro unico, è un libro che non si può nemmeno raccontare come narrativa, sono tanti monologhi, uno insieme all'altro, come il signor Mani, è un grande dialogo, però hanno la stessa capacità di farti totalmente entrare dentro una storia e non avere nient'altro che quella realtà mentre leggi, non ci sono distrazioni perché sei totalmente immerso. Bene. Basta così, i miei 5 libri preferiti sono questi. Ciao! Ed eccoci qua che rientriamo, siete sempre all'ascolto di Poi You Hit, Lettere Contrarie. Oggi abbiamo ospite Edoardo Olmi, parleremo di poesia, ma faremo anche sentire la poesia, non soltanto ne parleremo, anzi. Beh, io prima di tutto vorrei davvero ringraziare Rosanna, Lorenzo e Benedetta per queste super classifiche, continuate a mandarcele, le trasmetteremo durante le trasmissioni delle prossime settimane e poi magari alla fine ci faremo un bello speciale con tutte queste letture che ci stanno arrivando in questi giorni. Vi ricordo come potete inviarcele, ovvero scrivendo a postawombat@insiberia.net oppure usando la messaggeria del Wombat. Il link si trova nella prima pagina del sito wombat.noblogs.org, c'è un bel bottoncione rosso nel quale potete registrare i vostri audio. E infine ricordo anche come potete contattarci qua direttamente in diretta, ovvero usando il nostro pad, il link è sempre nella home, nella prima pagina del sito wombat.noblogs.org, cliccando su diretta Wombat, oppure direttamente andando su rafanu.vado.li. E ed eccoci, Edoardo, sei sempre con noi? Ci sei? Eccoci. Eccolo, allora intanto faccio presente da subito che abbiamo una colonna sonora oggi che è stata scelta da te, giusto Edo, per accompagnare anche una serie di letture che ci farai durante questa puntata. Esatto, su gentile invito di Marco e di Radio Wombat ho scelto qualche brano musicale, insomma, mi sembrava sia che ci stesse bene con i testi ma anche un po' con la situazione attuale in cui siamo. Benissimo, e allora io vorrei soltanto, prima di farti qualche domanda sul tuo nuovo libro, i prossimi progetti e anche le prossime puntate che avremo qui su Puyo Hit, infatti avremo di nuovo la tua voce e altri ospiti da Ensemble e da Affluenti, io direi di iniziare subito nel vivo, perché come dicevo davvero è bello parlare di letteratura, ma è forse più bello ancora farla sentire, e quindi se sei d'accordo io ti inviterei subito a farci una lettura che magari ti lascio anche annunciare a te, poi la prima delle canzoni che hai scelto e andiamo poi con le domande che ho preparato per oggi. Sei d'accordo? Sì, e appunto pensavamo un po' di iniziare questo viaggio all'interno di questi inediti e di questo nuovo libro a cui sto lavorando e con la lettura di un testo che chiude un'ideale, insomma un'ipotetica prima sezione del libro, e che si intitola, questa sezione appunto, Modernità in polvere. Abbasso la base e siamo tutti orecchie. Le ruote stridono, dei vagoni merci sovraccarichi di fil, ampi carichi sporgenti di opulenza. Nelle città che scorrono su rotaia, le ISIS passano, ma i militari restano. 5 chilogrammi a corsa a mezzogiorno per rubare un treno, prima che il regionale deragli su di noi, sono la lettura per il corpo e per la mente che cercavi, quando anche Trenitalia può indurre sonnolenza. Invitiamo i signori passeggeri a tenere a portata di mano il biglietto di viaggio, pronto per stroncarselo nel culo. Pensa quanti alberi e mercenari africani sradicati dalla protezione aziendale, usandosi per il disagio. Badigli da specchietti retrovisori. Tutta la corsia è una fiesta. Capai, carici, vagabondo della terra e di montagna. Cantare e non dover lottare per un paese dove pregare ogni volta che sali su un ponte autostradale, reclamando il tuo diritto a chiudere WhatsApp durante l'ultimo chilometro di ferie. Navigatori azzecca garbugli per stupe strade della terza età, battute di caccia alla Ferrari bianca. Sensore di parcheggio nella verginità, di amori claudicanti lungo la statale, masticando filtri in mezzo alle parole, nel mondo senza piombo, ad 8Q. Sul groviglio del raccordo anulare, col ginseng sull'acceleratore e gli occhiai a targhe alterni, ognuno sgassa i suoi 5 minuti di gloria. Amare sopra tavolette d'argilla scolpite col T9, trovando le parole sulle banche dati digitali. Fare wap con uno schiocco delle labbra alla sabbia di frittelle senza glutine, immersi in un mondo di qualità senza convenienza. Quando guardi Google Maps guarda in te, ma dal G2 all'S10 questa galassia è tutta un aggiornamento. Oppure ubriacarsi in un giardino di colori che non sono app di Google. Giga e non più giga, e il mondo finirà. È questa la generazione più lunga della storia. I'm gonna say Ed eccoci, sono pronto a farti alcune domande sul tuo nuovo libro, di cui fra l'altro ho avuto il piacere di leggere in anteprima appunto alcune poesie che ci stai anche declamando oggi durante questa puntata. Siamo con Edoardo Olmi, a cui vorrei chiedere, insomma, questo libro a cui stai lavorando, di prossima pubblicazione, avrà come traccia, come filo conduttore, quello delle stagioni. La tua precedente opera, Rexistence, che appunto abbiamo presentato lo scorso anno in Polveriera nel Festival della Letteratura Sociale, aveva invece suggestioni più legate a paesaggi urbani, metropolitani. Ti vorrei chiedere a cosa è dovuto questo cambio di scenario e anche se c'è una rottura oppure una continuità con le tue precedenti opere o magari entrambe le cose. E poi ancora ti faccio una domanda magari un po' ampia. Siccome quello delle stagioni, ecco, è un tema piuttosto ricorrente, anzi direi parecchio ricorrente nella storia dell'arte, dalla musica alla letteratura, alla pittura, insomma si sprecano gli esempi, come ci sei arrivato e anche come lo stai sviluppando all'interno della tua raccolta poetica? Se non l'ho fatta troppo confusionaria, ti passo volentieri parola. Sì, anzi, grazie per... Eccomi. Sì. No, grazie per questa domanda che è, insomma, penso sia molto attinente e importante, insomma, a questo libro, a quest'opera a cui sto lavorando. Come in qualche modo penso si sia già sentito dalla prima lettura, anche in questa nuova opera, anche in questo nuovo libro, ci sono degli scenari, dei paesaggi, insomma, che rimandano a un ambiente urbano, un ambiente metropolitano. Chiaramente anche appunto in un testo che si intitola Modernità in polvere ci sono questi paesaggi, questi scenari, ma c'è anche un tentativo, diciamo così, di assaltare, no, questi paesaggi, questi scenari, questi immaginari con, diciamo così, l'arma della poesia, no? E questo secondo me c'era già in Rexistence, questa appunto tensione, questo tentativo di, come dire, in qualche modo dare l'assalto alla polis, no? Quindi a tutti quelli che sono i linguaggi, gli immaginari, in qualche modo anche le prassi, le pratiche, che la polis intesa un po' come spazio recintato, no? Come spazio che si definisce in quanto tale cingendo delle mura che appunto pongono un confine fra chi è all'interno e fra chi è all'esterno. Chiaramente questo spazio della polis, no? Quindi questo spazio urbano metropolitano definisce una serie di linguaggi, appunto, di immaginari, di pratiche da cui in qualche modo è difficile, se non impossibile, prescindere totalmente, con cui non si può non fare i conti, no? Quindi chiaramente il tentativo, la necessità è quella anche di scardinarli, no? Di provare a decostruirli, però nel tentativo, nella volontà di portarli al di fuori, no? di portarli al di fuori della cinta muraria, e quindi di decostruendoli, di portarli restituirli in qualche modo a un divenire, no? A un divenire della vita del mondo, a un respiro della vita del mondo, che poi è anche un divenire, un respiro del linguaggio e quindi della poesia, legato in qualche modo più legato anche al divenire, diciamo, cosmologico e della natura. Quindi penso che in qualche modo queste tematiche ci fossero più o meno soggiacenti anche in Rexistence. Sicuramente in questa nuova opera c'è un tentativo di portare oltre, no? Di portare a un ulteriore possibile compimento questo percorso e questa poetica, e sicuramente c'è un tentativo già di spostare più lo scenario e il paesaggio poetico già su un piano, appunto, no? Del divenire, quindi delle stagioni, e quindi più a questo anelito di ricongiunzione a livello in qualche modo cosmologico e naturale. Però sicuramente questo è un percorso ancora in corso d'opera, quindi c'è, credo ci sarà continuamente in questo libro, questa tensione continua appunto fra paesaggi, diciamo così, fra stagioni, ecco, fra stagioni intese sia come stagioni naturali del divenire, ma anche come stagioni della vita, quindi come diverse età della vita, e linguaggi, immaginari, paesaggi urbani e metropolitani. Bene, mi hai suggestionato anche, fra l'altro, un altro paio di domande, però se sei d'accordo io me le terrei volentieri per dopo, anche perché so che la prossima lettura che ci vuoi fare parla proprio di una città, esatto? Esatto, appunto, proprio per non smentire il fatto che anche in questa nuova opera ci saranno dei paesaggi, degli scenari urbani, poi passeremo anche a lettura appunto più legata al tema strettamente al tema delle stagioni, però questo secondo testo è stato scritto nei primi mesi in cui nella città di Roma iniziava, diciamo, un'amministrazione quantomeno ambigua, insomma, era quella appunto 5 Stelle che da alcune, diciamo, ingenue, credo anche in qualche modo, aspettative iniziali, poi già stava rivelando quale fosse e quale poi sarebbe stata anche la sua vera natura nei confronti soprattutto degli spazi autogestiti e appunto di realtà indipendenti di questo tipo. E quindi questo testo appunto si intitola Roma con 5 asterischi, che è un po' un gioco poetico appunto che fa riferimento a una Roma 5 Stelle. Siamo pronti. L'impoetica del vostro tabacco, dal finestrino della fragilità, quale ne palpitano a fuoco in prospettiva. Provistando nella monnezza, a termine inciampa pure il gabbiano e fa le ali grosse. I bidoni ormai hanno il saluto militare, onanismo ontologico della politica. Camminare viene prima di un consiglio di lettura, una quinta in casilina, due sessioni open mic ed un bacio alla ragazza più bella. Contro una sinistra da social network, ridi che ti passano anche i tiro. La democrazia vi ruba i sentimenti. Settembre non è un cimitero per zanzare. Ripassata la poetica del nostro passeggiare, le acque ci parlano, lungo i passi di una donna nel vuoto, sparando odio col silenziatore. Amate così la vostra rabbia, come un seno da scoprire in mezzo al buio. Contro un sole incipriato, di Dio non si può dire molto. Ardito il deodorante in fondo al cesso dentro al treno. Centrista quanto un bicchiere d'acqua, di fronte a te non ho altre scuse. Hai amato più in inverno che in estate. Nostra Signora della Metropolitana. Change, step aside. It's your foreview that took you by surprise. The sun's coming up, yeah, new dawn arrives. A generation standing there with anger in their eyes. No love in the city, cause there's no connection. Stricken by disease, a racial infection. I'm a battery man, coming through to you. In every alleyway, on every avenue. Oi, oi, oi! Ashes clear. Say it, kid, no one understands each other. He's a different color, but we're the same kid. I treat him like my brother, he'll treat me like his. We're an eye for an eye, yeah, tooth for tooth. Brother against brother, should be singing with the group. The inner city's burning, yeah, it's screaming black and blue. The power and the passion of a million youth. I'm a battery ram, coming through to you. Nothing you can do. He's a different color, but we're the same kid. I treat him like my brother, but treat me like this. Of all the blood that spills, of all the guns that fly, the media paints a picture that stains all our eyes. Pits and dogs and kids and cats. Now who is responsible for the power and the issue? The forces unstoppable. I'm a battery man, coming through to you. In every E c'è tanto, c'è davvero tanto in questa, in questa, in queste poesie. L'ultimo a me ha suggestionato molto, ci leggo un sacco di cose, ci sento Ungaretti, ci trovo Baudelaire sia per le immagini che per la scelta dei termini, ma ci trovo anche il te stesso di sempre, devo dire la verità, la vedo questa continuità. Mi ricordo per esempio la poesia su Piazza della Libertà che stava nel Porcospino in Pegaso, che questa poesia sulla Roma 5 Stelle me la richiama molto. Ma se sei d'accordo, io non ti lascerei divagare su queste mie considerazioni, piuttosto ti chiederei subito un'altra lettura. Ma innanzitutto, Marco, grazie per queste, per questa appunto divagazione che riportano anche me a tempi, insomma, e a, anche a testi poetici, insomma, suggestioni poetiche a cui sono molto legato, anche insomma le influenze che questo libro ti ha suscitato, perché insomma possono che farmi piacere e stimolarmi, e sicuramente penso ci sia anche una ricerca a livello di linguaggio, no? Che va in una direzione sincronica, diciamo così, piuttosto che classica, nel senso che le stagioni del libro sono al plurale, non solo perché le stagioni sono quattro, ma anche perché ogni stagione apre e chiude in stanze diverse di vita legate a quella stagione, e lo fa in modo sincronico, no? Diciamo, costruendo, componendosi a partire dall'apertura e dalla chiusura di uno spazio-tempo poetico che non è necessariamente cronologico, non è, diciamo, legato, diciamo così, a una fisica classica della poesia, quanto piuttosto a una, diciamo, una fisica quantistica, no, della poesia. Quindi appunto questo elemento di linearità e di ciclicità del tempo, che si, questi elementi, no, che si uniscono, che si compenetrano, e quindi appunto un tentativo quantomeno di discorso poetico, diciamo così, diciamo sincronico e non classico, no? Ecco, appunto, anche se a volte anche tutta una poesia contemporanea sul tema delle stagioni, che è molto presente, molto, molto forte come tema. Questi letti, in questi giorni ho riletto un po' D'Annunzio, ho riletto un po' Guido Gozzano, ho riletto un po' Walt Whitman, e a volte ho la sensazione che ci sia ancora un po' un tentativo, diciamo, di decostruire un linguaggio a partire da una forma classica, no? E invece il tentativo in questo caso è cercare di essere, dal mio punto di vista, un po' diverso. E vado subito alla lettura di Vermiglio, che è l'altro testo, appunto. Se volevi dire qualcosa, Marco. Sì, no, ma magari se sei d'accordo io taglierei quasi quasi un po' le musiche dopo, accorcio a un certo punto, le mando giù per farti una piccola altra domanda, visto che mi stavi parlando di questo. Se col tuo permesso, insomma, io ti vorrei chiedere ancora una cosa, cioè la forma, ovvero mi ricordo bene di come i tuoi libri scorsi, il primo in particolare, avessero forme varie all'interno. Queste qui, oddio, non la prima che abbiamo letto, Modernità in polvere, ma le altre due sono invece ordinate, non ci sono spaziature particolari e caratteri strani, a parte quelli 5 stelle del titolo di Roma. Mi sembra un po' più, come dire, classicheggiante la forma nella quale le proponi, la forma fisica nelle quali queste poesie le stai proponendo. Dico bene o dico male? Ma sicuramente apre un tema molto interessante e anche molto importante, su cui io stesso riflettevo in questi giorni, nel senso che chiaramente l'idea della natura, dell'anelito, no? Una ricostruzione con un divenire naturale e cosmologico in qualche modo, tendenzialmente mi sembra anche nella poesia, anche di tipo contemporaneo, tende un po' a rimandare, a riportare l'essere umano comunque all'idea di un'armonia, no? Diciamo di un'emancipazione, che è anche emancipazione in qualche modo di una possibile armonia con un cosmo, rispetto a, diciamo, la schizofrenia o all'alienazione degli ambienti, appunto, diciamo, urbani, no? E in realtà questo, chiaramente, questa che più che un'armonia è, credo, un tentativo di ricerca di un possibile equilibrio. Nei testi a cui sto lavorando su questo libro, dal mio punto di vista, chiaramente è anche una destabilizzazione, è una destabilizzazione forte anche a livello ontologico, sicuramente è una destabilizzazione, un tentativo quantomeno di destabilizzazione creativo, no? E quindi questo penso che faccia sì che anche i testi, anche da un punto di vista formale, diciamo così, i testi tendono a comporsi in modo un po' sincronico, ovvero Non c'è mai stata, dal mio punto di vista, una forma a priori, e allo stesso tempo non c'è neanche un informale, ecco, non c'è neanche un informale, almeno in senso stretto, c'è un possibile equilibrio sia a livello di composizione, di senso poetico, ma anche a livello di forma poetica, che però si compone o tende, cerca di comporsi, tende a comporsi in modo sincronico, cioè ovvero senza una forma aprioristica di qualunque tipo essa sia, forse neanche una vera e propria forma legata alla struttura del discorso, no? Cioè credo sì. Neanche nei testi colletti, in quelli che leggeremo, c'è anche un tentativo di equilibrio, forse quasi armonico in alcuni punti del testo, però non c'è una forma classica del discorso, no? Anche sui passaggi poetici, laddove invece, rileggendo anche alcuni testi in questi giorni, ho avuto la sensazione che anche una certa poesia contemporanea legata all'approccio, appunto, per quanto riguarda il tema delle stagioni e del divenire, a volte ci sia ancora un po' la tendenza, diciamo, a decostruire in chiave più o meno panteistica una forma classica del discorso, va bene, sulla natura, piuttosto che a lasciare che sia in qualche modo il divenire stesso a suggerire delle forme, delle possibili forme e una possibile sincronia, sia a livello di senso che a livello formale. Molto chiaro e anche molto interessante trovo questa risposta, e allora in attesa poi di poterle leggere anche scritte nero su bianco, inchiostro su carta, faccele sentire dalla tua viva voce, faccene sentire un'altra. Leggi Vermiglio allora, se sei d'accordo, giusto? Vermiglio, stai per leggerci. Esatto. Sì, via. I giorni in cui il tempo ha la durata che gli dai, gli unici 00 che guardi sono quelli della squadra del cuore. Se il desiderio perde tappi come polline ad aprile, il vento sbatte le finestre della quotidianità. C'è aria a reprimere gli sforzi, la farfalla lo sa, si leva in alto il vanto del pettirosso. Anche quest'anno la terra è sopravvissuta. Come spighe carezzo i tuoi capelli e rosti cerco i quaderni per le nostre poesie. Siamo fatti per gridare assieme i sudori una colata lavica sopra campi a maggese, ribollire di risate in un posto fuori posto. Fra le faglie del silenzio, le catene montuose del risveglio, freschezza dentro al petto su altipiani della verità, come un albero a affondare le radici dentro al sottosuolo dei millenni. Sei amato quando cerchi un'estetica su come uscire dal bagno, morto quando scambi cinguettini per suonerie di un iPhone. Dentro lo spartito dei respiri, infiniti modi di fare l'amore, dilata le pupille, la scintilla di ogni rivoluzione. I giorni in cui il tempo ha la durata che gli dai, gli unici 00 che guardi sono quelli della squadra del cuore. Se il desiderio perde tappi come polline ad aprile, come spighe carezzo i tuoi capelli e rossi cerco i quaderni per le nostre poesie. Rieccoci in diretta su Radio Wombat. Mi permetto di tagliare la coda strumentale di questa canzone dei CSI, che comunque lascio in sottofondo. Edo, ci sei? Eccomi. Allora, io ti vorrei subito fare un'altra domanda. Ti vorrei chiedere qualcosa legato a ciò che ci hai detto poco fa. Insomma, se, come appunto ci hai detto e fatto sentire, le stagioni le interpreti non in senso panico, ma come un naturale confarsi, adeguarsi al divenire delle cose, allora ti vorrei fare una domanda a proposito degli strani tempi che stiamo vivendo. Ecco, siccome la Allora, è netta, è indiscussa la cesura storica che sta venendo provocata dalla pandemia di coronavirus. E questa fase sembra aver reso in qualche modo al volo, inattuali, tutti quegli immaginari e quegli orizzonti messi in campo precedentemente. E penso che valga su tutti i livelli, compresi probabilmente anche quelli che riguardano la ricerca artistica, il mondo della cultura. E allora, se sei d'accordo su questo, io ti vorrei chiedere, ma io penso tu, cioè, come vedi oggi questo tuo nuovo lavoro, ecco, questo che stai realizzando nell'ottica della fase storica che si sta sviluppando, e se questa pandemia ha in qualche modo influenzato oppure influenzerà la tua ricerca poetica su questo nuovo libro, che appunto è ancora in divenire. E infine ti vorrei domandare quale vedi essere oggi la situazione nel mondo della poesia, della letteratura e dell'editoria indipendente, di cui appunto come affluenti sei, siete, parte. Ma sicuramente questo... Mi senti, Marco? Sì, sì, sì, sì. Sì, sicuramente questo evento, insomma, questa pandemia, questa cosa che è successa è qualcosa che, no, non so se fosse dire che è un evento epocale, perché poi insomma dovremo vedere quali saranno poi i reali sviluppi, però sicuramente è qualcosa di fronte al quale nessuno può in qualche modo rimanere indifferente, e si parla spesso, no, in questi giorni di cosiddetto ritorno alla normalità, ma penso che ci sarà anche da capire in qualche modo a quale normalità pensiamo e vogliamo tornare dopo tutto questo, per evitare che la normalità non sia nuovamente, diciamo, invece che opzione a questo tipo, diciamo, di problema, che non sia nuovamente la causa, no? Di questo tipo di problema, di questo tipo di eventi, insomma, in questo caso di questa pandemia. E pensando anche a quello che dicevi, no? Più che un sentimento panico nei confronti della natura, un lasciarsi andare naturale. Io sotto naturale direi è un anelito, anche più che ancora prima, anche più che un lasciarsi andare, è un anelito poetico al divenire, che è divenire chiaramente di tante cose, cioè divenire del cosmo, di un ecosistema, è divenire di un'esistenza, no? E quindi anche di quelle che sono le diverse stagioni di un'esistenza. Io penso che per chi cercava e cercava di andare in questa direzione già da tempo e vedeva già da tempo, andando appunto in questa direzione e andando in quest'ottica, in questa prospettiva, vedeva già da tempo quella che era la crisi in qualche modo irreversibile di tutto un sistema o di una serie appunto di sistemi sociali, che sono quelli che poi ci hanno portato e che ci stanno portando in realtà da secoli, forse da millenni, perché si parla di contraddizioni che riguardano l'umanità e non di certo, insomma, da qualche anno, ecco. Ma chi vedeva ed era consapevole sia della crisi di questi sistemi, sia di quelle che sono un po' le contraddizioni insite a livello originario, no? Diciamo genealogico, nella cosiddetta civiltà e ancora di più nella cosiddetta forse modernità, chi da tempo vedeva tutto questo non si stupisce certo di quello che è successo, e forse trova nei suoi percorsi, nei suoi lavori, nelle sue opere già il seme, in qualche modo trova già gli anticorpi per poter rispondere a tutto questo. E io in questi giorni sento e sto continuando a sentire questa ricerca, questo percorso poetico anche su questa nuova opera, non solo meno attuale di prima, ma in realtà ancora più attuale di prima, proprio in virtù di quello che è successo e di quella che penso potrà essere la fase storica verso cui, non so insomma in che modo e per quanto, ma verso cui penso che stiamo andando e in qualche modo andremo. Per cui assolutamente, sicuramente, ho anche scritto alcune cose in questi giorni, in questi mesi di lockdown, per cui un testo ancora in corso d'opera che poi leggerò, per cui sicuramente si cerca di dare delle risposte specifiche, però ecco, penso che tutto questo non ci stupisce purtroppo che sia accaduto, e che gli anticorpi a tutto questo, una vera cultura, una vera controcultura, potesse e dovesse averli sviluppati già da tempo. Beh, io siccome in realtà ti vorrei chiedere ancora cose, ma siccome l'ora si inizia a fare tarda, io ti inviterei se ce l'hai a portata di mano e se ti fa piacere di a leggerci questo testo che stai realizzando in questi giorni, o che forse hai finito nel frattempo che hai completato, o forse no, insomma. E sì, il testo è appunto work in progress, come si dice, Sì? e io avevo provato nei primi giorni a non assuefarmi, insomma, a non cedere appunto all'idea che insomma bisognasse piegarsi, no, a tutto questo. Non avevo scritto niente, insomma, nei mesi di lockdown. Poi, come dire, cioè, a un certo punto ho sentito che in un modo o nell'altro non si poteva non fare i conti con tutto questo e, come diciamo, uomini, esseri umani, insomma, anche di fronte a tutto questo. E quindi, insomma, è nata, sta nascendo, appunto, sto ancora lavorando su questa poesia, su questo testo. Ha un titolo? Ha un titolo per adesso provvisorio, che chiaramente è un riferimento anche un po' così, insomma, ironico, provocatorio a un libro, insomma, a un famoso libro di Gesualdo Bufalino, Vicidea dell'Untore, e il testo, insomma, in via ancora provvisoria. In versione provvisoria si intitola appunto Diceria degli Untori. Siamo pronti. Siamo banditi del progresso, malati terminali in una civiltà dove i droni annunciano equinozi di primavera. La fuga di Olimpia in diretta da Barbara D'Urso per applicare la sharia della sanità agli spazi liberati del toccare. Mendichiamo un'ora d'aria di libertà al sacramento dell'io resto a casa. Contrabbandiamo sguardi e passeggiate con il cane. Ipocondriaci per DPCM, immunodepressi nel difendere la vita dei più deboli. Col distanziamento sociale delle resistenze, dentro la Wuhan della bassa padana, volia che si è arresa un millesimo di micron, indossiamo le inferriate evitando di inalare moscerini nel giro del cortile in 54 giorni. Rimandiamo a fine anno la guerriglia partigiana, raccontandoci che niente sarà più come prima. Eppure le stagioni sfrigolano, i tassi corrono veloci lungo via Pietrapiana, delfini vanno a caccia attorno al Lido di Venezia, orsi che sgambettano sul passo del Tonale, ippopotami nei resort tra le spiagge dell'Oceano Indiano. Il mondo si è preso qualche anno sabbatico, la scienza ci riduce a particelle di particolato negli spasmi interstiziali della modernità. Beh, io li butto subito giù i System of a Down per ritornare con Edoardo Olmi, ma la lascio in sottofondo e poi la rialzo un po' più avanti questa canzone. Sei ancora con noi, non ti do respiro, perché ti vorrei dare anche il tempo giusto per rispondere alla prossima e penultima domanda che ti vorrei fare oggi. Ci sono, i tempi un po' stringono, ci sono. Sì, alle 17 poi andrà in onda La Fuga del Gatto, il programma di musica classica di Radio Wombat in questa domenica culturale che fa invidia a Radio 3. Beh, io allora ti vorrei chiedere quello che abbiamo chiesto all'inizio ai nostri ascoltatori, ovvero la lista dei 5 libri preferiti. La stiamo chiedendo agli ascoltatori, direi che da oggi la inizieremo anche a chiedere a tutti gli ospiti che avremo. Però magari la riformulo, piuttosto che semplicemente i tuoi 5 libri preferiti, ti vorrei chiedere quali sono quelli che hanno più di altri influenzato, magari l'opera a cui stai lavorando, in generale la tua poetica? Poi 5 è un numero approssimativo, sentiti libero di rispondere da 1 a 10 quanto ti sembra giusto, se ti va. E sì, diciamo, sicuramente i 5 libri preferiti, insomma, difficile, no? Poi sceglierne 5 tra Sì. tanti e considerarne alcuni più importanti di altri. Però, così, in questi giorni ho fatto un po' di brainstorming, come si dice, e sono ritornato insomma indietro in alcune stanze del passato, fra cui una in cui mi ricordo un libro di Gregory Corso, Poesie, edizione Quanda, che mi regalò un certo Marco, che adesso fa il conduttore radiofonico, diciamo, per una radio e per una strana trasmissione e quello fu un libro importante a suo modo, perché appunto arrivò quando ero in partenza per Roma, dove sono stato 4 anni, dove Gregory Corso è stato, ha vissuto insomma per diverso tempo, e sicuramente fu insomma una delle letture importanti che mi accompagnarono in quel viaggio, dove poi avrei avuto il piacere insomma di conoscere personalità come Jack Hirschman e Nelly Cerkosky, Alejandro Murguia, e appunto personalità legate a quell'esperienza cosiddetta beat o post beat a partire da San Francisco. E un altro libro che ho riletto, insomma ho ripreso in mano in questi giorni, è Gocce insorgenti di Bartolomeo Bellanova, uscito nel 2017 se non sbaglio, libro di poesia molto bello e, come suggerisce il titolo, anche molto militante. Bartolomeo, fra l'altro, uscirà, è in programma, diciamo, in piano editoriale per la collana di Affluente, con un nuovo libro di poesia che dovrebbe uscire, se tutto va bene, a settembre. Nel frattempo continuo insomma di conoscere questo autore a partire dalla lettura di Gocce insorgenti, edito da Terra di Univi Edizioni. Un altro libro importante in questi anni è stato La radice quadrata del cielo di Alberto Blanco, poeta messicano che ha tradotto anche recentemente una mia poesia, che è un libro incredibile, cioè è tipo una specie di grande teoria scientifica in versi, ma non nel senso che sono formule in versi, nel senso che sono proprio come delle specie di teoremi scientifici in poesia. E secondo me va letto, perché è un poeta assolutamente originale, anche molto molto versatile, cioè che ha scritto moltissime cose, anche molto diverse tra di loro, ed è considerato uno dei più importanti poeti messicani che abbiamo presentato nel 2018 qua a Firenze, al Caffè Letterario delle Murate. Un altro libro che mi ha colpito molto in questi anni è Nur, Eresia e Besa di Gesim Haidari, poeta esodo albanese che cura una collana editoriale per Edizioni Ensemble, che è la collana editoriale di Erranze. È un libro in cui lui traduce in italiano alcuni, questo diciamo, importante poema epico delle popolazioni delle montagne dell'Albania del Nord, da cui proviene lui e la sua famiglia, che erano poemi che erano tramandati prima di tutto oralmente. Lui lo ha tradotto in italiano, è un poema che narra una vicenda insomma di un giovane albanese che fa un gesto di fratellanza nei confronti dei cristiani quando l'Albania era nel confine nord dell'impero ottomano, viene scambiato per blasfemo e viene condannato per eresia sul rogo dalla Santa Inquisizione, si parla del 1500. Consiglio di leggerlo perché è veramente un bel libro e si parla di una cultura popolare che purtroppo insomma non è molto conosciuta, soprattutto in Italia. L'ultimo libro è che per me sono sicuramente non solo questo di questo autore, ma per certi versi penso sia la sua opera più importante, è Roghi sull'acqua babilonese di Hassan Adi al-Nassar, che alcuni sicuramente conosceranno, che tu Marco ben conosci, poeta esule iracheno, scomparso purtroppo a fine del 2017, di cui abbiamo pubblicato con Affluenti la nuova edizione dell'ultimo libro, Il Labirinto, purtroppo poco dopo che lui morisse, e insomma è un personaggio che tutti sanno, tutti quelli che seguono Affluenti sanno che a cui siamo particolarmente legati, e insomma che è un pezzo fondamentale, è e continuerà a essere una parte fondamentale del nostro percorso. Questo libro, Roghi sull'acqua babilonese, è secondo me l'opera, diciamo, forse ancora resta quella più importante di Hassan, e quella che, sì, diciamo, penso che valga la pena iniziare anche leggendo questa sua opera, che è pubblicata da Edizioni Idea e casa editrice di Firenze, e che consiglio assolutamente di leggere per iniziare a conoscere questo autore. Bene, bene, grazie per queste tue belle risposte. E beh, ti inviterei a un'ultima lettura, o penultima, vediamo il tempo che abbiamo. Beh sì, visto che siamo quasi alle 5, quindi direi iniziamo ad andare verso chiusura, ma visto che sì, abbiamo citato Hassan Adi al-Nassar, e in questi mesi ho scritto un testo su di lui, nonostante che per me fosse in qualche modo impossibile parlare di Hassan, perché

rieccoci quasi per i saluti, anche perché stiamo decisamente allungandola oltre misura la trasmissione di oggi. Edo, voglio dirtelo, era bellissima ed emozionante la poesia dedicata ad Hassan, ancora di più per chi penso lo ha conosciuto di persona, e quelle serate di sbronze bevute insieme che racconti se le ha anche vissute. Ed era adattissima anche il suonatore Jones, che ci ha tenuto a mandarla fino alla fine, rubando 5 minuti a Pink e alla Fuga del Gatto, che sta per andare in onda. Non è pubblicata la poesia per Hassan, vero, ancora? E ancora no. Aspetta che mi sento un giorno in cuffia. No, ok, perfetto, adesso no. No, non ancora, è uno dei testi che insomma spero potranno uscire presto in questo nuovo libro che... Sì, a proposito, infatti, ricordaci questo: quando hai in progetto di fare uscire questo nuovo libro? Ma diciamo, chiaramente questo, come tante cose in questo mondo, non dipenderà, ahimè, soltanto nemmeno da noi, ma anche un po' dalla situazione com'è, sì, e come evolverà. Poi non ho avuto modo, insomma, di accennare al mondo delle periferie, ma magari ne parliamo alle prossime puntate. Insomma, la situazione per le indipendenti, non potete immaginare, non è per niente facile, come per tanti altri spazi indipendenti. E io penso e spero che per il prossimo anno, nel 2021, il lavoro possa essere portato a termine, insomma il libro possa uscire o provare ad uscire. E sicuramente, insomma, la mia intenzione, il mio tentativo è questo, e poi vediamo un po' come evolverà la situazione. Grazie davvero, no, Marco, grazie a te, infatti te l'avevo chiesto anche prima, di Affluenti, perché ma anche di Hassan, dicevo, grazie mille, insomma, per queste suggestioni, insomma. Sì, insomma, io ci tenevo, mi faceva molto piacere ricordarlo, insomma, anche in questa radio, che è la radio del Festival di Letteratura Sociale, insomma, della Polveriera, dove tante persone negli anni lo hanno conosciuto e, come noi, insomma, hanno anche cercato di aiutarlo, di dargli una mano e di farlo sentire per quello che era, ovvero un poeta, insomma, molto molto importante, ecco, che abbiamo avuto per più di 30 anni qua a Firenze. Grazie a te, grazie Edoardo Olmi per questa partecipazione di oggi, ma la sua voce la risentiremo nelle prossime puntate, dico bene? Esatto, il 24 maggio saremo in onda con Barbara Mosel e Alessandro Scarpellini, un'autrice di origine austriaca e un autore di Pisa, che usciranno entrambi con i loro libri, speriamo prima possibile, per la collana di Affluenti, Un confine in comune, quello di Barbara Mosel, e L'amore segreto, quello di Alessandro Scarpellini. Il 7 e il 14 giugno faremo una doppia puntata con gli autori e con le autrici della nuova antologia di Affluenti, la seconda, che uscirà anch'essa prima possibile, e ci suddivideremo in due puntate, saranno penso 7-8 voci, ecco, che leggeranno insieme per ogni puntata, e presenteremo anche questo progetto, questa antologia, che tra l'altro, insomma, correggimi Marco se sbaglio, ma abbiamo in progetto di presentare anche al festival appena sarà possibile riaprire le porte. Sì, per adesso il progetto è di dargli vita fisicamente in autunno, ma ovviamente vi terremo bene aggiornati, e quindi, insomma, Edoardo Olmi, avremo occasione di riaverlo ospite nelle prossime settimane. Anche la domanda sull'editoria indipendente me la tengo per le prossime. Intanto vado a chiudere velocemente, grazie di nuovo a Edoardo Olmi, qua siete all'ascolto di Poi You It, rimanete anche all'ascolto di Radio Wombat, fra poco La Fuga del Gatto, alle 19 la diretta quotidiana, nella quale oggi avremo un sacco di voci, ospiti da tante radio indipendenti sorelle d'Italia. State quindi con noi, la puntata la si potrà riascoltare in podcast a partire da stasera. Un saluto, Edoardo. Un saluto a voi ragazzi, grazie di tutto, e ci sentiamo, e spero anche che ci vediamo presto. E come no, speriamo davvero. Un saluto a te, a presto. Buon ascolto e alla prossima. Buon proseguimento, ciao, a presto. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This your boy D-Mike. See, I usually do songs with, like, hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. R-E-A-D-A-B-O-O-K. direi che è il modo più bello per viaggiare.